Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Bilal, nessun viaggiatore è straniero, tratto dal libro Bilal, viaggiare, lavorare, morire da clandestini di Fabrizio Gatti, per la regia di Annalisa Bianco con Leonardo Capuano. Degli infermieri, le loro premure. E poi Bilal viene portato al centro, un cancello verde accanto all'aeroporto, in cima una matassa di filo spinato. Apre un poliziotto in tuta antisommossa, anfibi, pistola nella fondina. E poi Bilal entra nella gabbia di Lampedusa. Uniti come individui liberi di pensare, che non fa differenza tra uomini e donne, amici o nemici, connazionali o stranieri, cittadini o clandestini. Oltre questo cancello entrano in gioco gli accordi di Stato. Oltre questo cancello noi non siamo più individui, ma siamo quello che siamo. C'è il bilancio ufficiale, ma purtroppo drammaticamente provvisorio, del naufragio di Lampedusa di giovedì scorso. Dopo gli 83 corpi recuperati ieri, al ritmo di 9 cadaveri all'ora, uno ogni 6 minuti, stamani i sommozzatori hanno riportato in superficie corpi di 17 persone, uomini, donne e bambini. Mi sono sempre chiesto cosa succede nella testa di una persona, considerato che nel momento in cui decide di partire, migranti, che 150 sono sempre chiesti sopravvissuti, e 213 all'appello, ne mancano 150. Sono ancora a 47 metri di profondità, il che significa che alla fine di questo orrore i morti potrebbero essere 363. Ma perché 36 minorenni intanto hanno lasciato il centro di Lampedusa e sono stati imbarcati su un traghetto di linea per Porto Empedocle. I giovani migranti saranno ospitati nelle comunità d'accoglienza dell'Agrigentino. Nella struttura di Contrada Imbriacola rimangono al momento 936 persone a fronte di 250 posti letto disponibili. Con la stessa motonave sono giunte in mattinata nell'isola altre 150 bare. I feretri caricati su alcuni camion frigo sono stati trasportati nell'hangar, dove già si trovano le bare di 111 vittime del naufragio e di 83 corpi recuperati ieri dai sommozzatori. Al momento nessuna salma è stata trasferita sulla terraferma. Molti dei sopravvissuti hanno infatti raccontato di aver perso dei parenti del naufragio e dunque, prima di portar via le salme, risiederà loro la possibilità di visionare le foto scattate dagli uomini della polizia scientifica per vedere se riescono a identificarli. E intanto a Lampedusa si annunciano altre importanti visite. Mercoledì sarà nell'isola del presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, per vedere, ha dichiarato con i miei occhi, cosa possiamo fare per risolvere la situazione. Barroso, che sarà accompagnato dal vice premier Angelino Alfano, discuterà possibili ulteriori misure da prendere e azioni concrete da sviluppare a livello nazionale ed europeo per far fronte alla spinosa questione dei rifugiati. Tra le misure in discussione ci saranno anche possibili azioni congiunte con paesi terzi e stamani il Parlamento europeo ha osservato un minuto di raccoglimento. Mi sono sempre chiesto cosa c'è dopo una persona nel momento in cui la sua mente decide di partire. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, mesi o anni prima, secondo cui il Vaticano sta valutando che tipo di aiuto dare soprattutto ai bambini immigrati arrivati a bordo del barcone e che sono ospiti del centro di accoglienza. Il motivo per cui e anche la nazionale di casa si accorge che non restano alternative. Il CT Cesare Prandelli ha detto di essere pronto a portare la squadra a Lampedusa. Di fronte a soccombere qui non significa necessariamente morire. Una nuova mentalità, ha detto Prandelli. C'è di peggio. Non abbiamo ricevuto inviti, ha concluso, ma se dovesse succedere non ci tireremo indietro. Quando il viaggio è iniziato, cercavo il perché migliaia di uomini e donne si imbarcano su dei rottami destinati ad affondare. Perché non rinunciano? Non tornano indietro, non se ne stanno a casa loro. Volevo scoprire cosa c'è sulla rotta per l'Europa di più spaventoso della morte in mare. E l'ho scoperto. Buongiorno, come va? Bene, grazie, lei? Bene, se Dio vuole. E la salute? Bene, se Dio vuole. E il lavoro? Bene. E la famiglia? Bene. E la vostra salute? Bene, bene, come vuole Dio. In cosa posso aiutare? Devo andare a Bamako. Oh, oh, oh, oh. Bamako! Sì, domani mattina c'è il treno. No, no, no, domani non ci sono treni. Vabbè, senta, quando c'è? Ah, il treno arriva lunedì. Lunedì? Forse, se Dio vuole. Forse. E quando riparte? Ma mercoledì. Ma oggi è venerdì! Mercoledì oppure sabato! Se Dio vuole! Fino a sabato prossimo? Senza treni per Bamako! Ma cosa è successo? Un treno è deragliato! Qualcuno dovrà metterlo sul binario! Venga a chiedere lunedì! Deragliato! Ma quando è deragliato? Quando? Boh. Comunque, ci hanno detto che domani non arriva. Tornate a chiedere lunedì. Senta, ma come si arriva a Bamako senza treno? Ma c'è l'autobus. Ah, bene. Ma è partito ieri. Vabbè, il prossimo? Ah, il prossimo è giovedì. Certo, giovedì. Senta, ma se uno ha fretta ad arrivare a Bamako... Amico mio, ma in Africa nessuno ha fretta ad arrivare. Vabbè. Però c'è... c'è il taxi collettivo. Si chiamano... Alhamdulillah. Vuol dire grazie a Dio. Grazie per ogni volta che si arriva sani e salvi a destinazione. Mi dicono che dalla piazza oggi parte un solo Alhamdulillah. La Peugeot familiare, grigia, modello anni 70, mancato ovunque, già stracarica. Senta, devo prendere il treno per Bamako. Arriveremo in tempo. L'autista si chiama Usman. Alza le spalle. Ah, guarda. Io non so se il treno parte stasera. Ma se parte stasera, arriveremo in tempo, se Dio vuole. Evidentemente Dio non vuole. Perché non appena ci muoviamo si buca la ruota anteriore destra. Mezz'ora buona per cambiarla. Usman ha 40 anni, uno di quegli africani che non ha in mente un viaggio per l'Europa, ma la sua vita e quella della sua famiglia dipendono da questa Peugeot decrepita. Usman la tiene in vita con un continuo accanimento terapeutico, ma si vede che lei vorrebbe farla finita subito. Va, ripartiamo a mezzogiorno. La Peugeot scricchiola. Caracolla. Arranca in salita. Usman vuole rassicurare i passeggeri che hanno paura di perdere il treno di stasera e gira completamente la testa per rispondere alle loro domande. Ma scusa, Usman, cioè, voglio dire, così non ti rendi conto di cosa ci aspetta, eh? In mezzo alla pista, dico. No, è una piccola gobba. Sì, è una piccola gobba. No, non è una roba, è una cosa di pietra. Sembra una pietra, cioè una roba di pietra. Che è una pietra, una magari una schiera di pietra. Semi sommersa, la Peugeot ci entra. Cos'è stato? Questa è grave. La pietra a rampa ha colpito la coppa dell'olio. L'ha spaccata in due. Questa è grave. Dopo quasi un'ora che siamo fermi, passa un furgone. Oh, si offrono di trainare la Peugeot. $50. Va bene, Usman. È disperato, l'ho visto, è disperato. Ha paura che adesso questi si prendano i suoi passeggeri e lo lasciano qui con l'auto in panna. Usman, contrattiamo, vediamo, adesso sistemiamo, contrattiamo. Finalmente il cavo di ferro viene inserito nel gancio di traino. Ma dico, la Peugeot carica, è troppo pesante. Procediamo a strattoni. Usman, se il cavo si spezza, entra come una bomba dal parabrezza e decapita me e te che siamo seduti davanti. Usman, così è pericoloso. Non c'è problema. Ma questa volta l'auto va a sinistra. Usman, gira il volante destra. Non c'è problema, ma la Peugeot continua ad andare a sinistra. Usman tiene duro, non c'è problema, ma la Peugeot testarda continua ad andare a sinistra. Non c'è problema. Vediamo il furgone che si allontana. Si allontana, è il doppio della lunghezza del cavo, il triplo, se ne va. Usman capisce subito cosa è successo, tutti lo capiamo. Quello che sta inseguendo il furgone rimbalzando sui sassi è il frontale della Peugeot. Paraurti, fari, radiatore, impianto di raffreddamento, tutto staccato in un unico blocco. Beh, la Peugeot è decapitata. Fine della corsa. Fine di Osman. Abbiamo soldi per mangiare. Avete qualcosa? Stranded, arenati, incagliati, lasciati senza mezzi di trasporto, in difficoltà. Nei guai. Da quanto tempo non mangio? Sono stranded, non posso permettermi di mangiare. Ah, siamo bloccati qua da adesso. La testa piena di sogni, progetti, ma senza soldi, la fame. Il prezzo del biglietto. Daniel e Stephanie sono stati rapinati non appena entrati in Niger. La polizia gli ha portato via tutti i soldi e ha lasciato partire poi l'autobus con dentro i bagagli, i documenti. Sono arrivati qui alla cabeza. A piedi, quasi 1000 chilometri, a piedi. Ehi, devi stare attento ai poliziotti, sai. Qui ad Agadez è morto Oliver, un ragazzo nigeriano, 20 anni, soffocato da una pallottola di banconote. Vedi, lui li teneva nella tasca per pagarsi il viaggio in Italia, ma durante i controlli ha visto che i gendarmi che li stavano perquisendo sfogliavano, massacravano tutti di botte per paura che li prendessero. Si è ingoiato la pallottola. Io e Aloci veniamo dalla Liberia. Siamo partiti una settimana fa dal campo profughi di Buduburan, Ghana. Io con $250, Aloji 130. Ah, il viaggio è andato in pelle fino al confine con il Niger. Insomma, alla frontiera di Malawi, i poliziotti hanno chiesto $100. Non è che li hanno voluti. Ma il peggio è stato qui, alla Agadez. Ci hanno tenuto tutta la notte svegli. Poi a me hanno fatto sollevare il piede destro così, con un coltello, zac, e poi il sinistro, zac. Pensavano che li avessi nascosti nelle scarpe. Quando ho urlato per il dolore, si sono accorti che non c'erano doppi fondi. Io mi chiamo Bill, 26 anni. Dave, 24. Johnson, 27. Aloysio, 30. Daniel e suo fratello Stephen, 19. Loro studiavano all'università di Kitty State. Chimica farmaceutica, ora hanno lavorato 6 mesi, sei mesi per guadagnarsi dei soldi, per facendo di tutto, lavori piccoli, quello che capitava, manovali o facchini, Per risparmiare mangiavano poco, dormivano dove capitava e così sono riusciti a mettere da parte 30.000 naira, $280, e sono partiti. Ma prima avevano provato a chiedere di entrare in Europa regolarmente. Sono stati all'ambasciata italiana, hanno presentato i titoli, i curriculum universitari. Gli hanno chiesto perché per il visto occorrevano garanzie. Dovevano versare $2.000. $2.000. Ma se ce l'avevano se ne stavano a casa loro, no? Johnson faceva il meccanico. Gli davano $4 al giorno quando lo pagavano. Il padre di Danny insegna geografia in una scuola media di Benin City, sua madre è ben destota, al mercato. Avevano risparmiato $150 per pagargli il viaggio fino in Libia. Lui li nascondeva nelle lontane. Al primo posto di controllo i gendarmi non li hanno trovati, ma qui, a Bangladesh, gli hanno infilato una mano nelle mutande e gliel'hanno presi tutti. Sua sorella, che vive in Olanda, ha provato ad aiutarlo. Ha mandato $5.000 a un boss nigeriano di Cotonou. Lui gli ha fatto avere un passaporto sudafricano, una lettera di invito per Londra. È entrato in Niger in autobus. Gli hanno detto che così era più sicuro. Ma all'aeroporto di Neomei la polizia ha scoperto che la lettera d'invito era falsa e non l'hanno fatto partire. Adesso non gli resta che il deserto, i $5.000. I $5.000 se l'è tenuti il boss nigeriano. Oh, pronto italiano, ti spiego cosa posso fare per te? Io accompagno i clandestini a Tripoli, controllo che tutto vada bene, tengo i contatti con i camionisti e i trasportatori. Il mare? No, il mare è un'altra cosa, non me ne occupo io. Ma guarda, posso trovarti gli agenti buoni, io chiedo $1.000 a persona. Di solito accompagno massimo 3 persone a viaggio, 3 persone. Io non voglio casini. Su 3 persone, $1.500 restano a me e altre 1.500 vanno all'organizzazione. Il mare per l'Italia costa altre $1.000. Dollari americani, niente euro, dollari americani. Non è mai morto nessuno dei miei clienti. Nessuno. Tutti hanno telefonato a casa quando sono arrivati. Io penso a tutto, è tutto sotto controllo. Quando sta per arrivare altri 9 clienti, mi telefonano dalla Nigeria e io preparo tutto. Ho attraversato così tante volte il deserto che ho perso il conto. Se domani mi porti altri $1.000, puoi andartene subito. C'è un camion di partenza dopo domani. Questo è quello che posso fare per te. L'alba. Bisogna andare. Ci si ritrova nel grande recinto dell'autogara. C'è un gran bandiriere. Il camion è pronto, in mezzo al piazzale. L'hanno addobbato tutta la notte. Adesso la sua sagoma è gonfia di bidoni d'acqua. Un immenso grappolo. Mi dicono che devo andarmi a sedere dove? Ehi! Dove devo andare? Sul tetto della cabina? Dico il mio bidone! Il bidone! Lo devo legare lì! Ok. Ehi, senta! Dico, ma la scala! No, la scala che va in cima per andarti in cima, ma è troppo stretta per i piedi di tutti! Ma non molti si aggrappano direttamente al cassone, rischiano di far cadere i bidoni, bagagli. L'autista si arrabbia! Vabbè, pazientemente ricomponiamo la cosa. I primi passeggeri vanno a sedersi a cavallo delle fiancate, seduti su delle coperte di lana arrotolate per ammorbidire gli spigoli. Altri si accovacciano in fondo al cassone. Altri a scuola sono costretti a rimanere in piedi, perché è una fatica trovare spazio dove infilare le gambe senza calpestare chi è sotto. Gli ultimi si devono accomodare, si fa per dire, nelle traverse di ferro, saltate da una parte all'altra delle fiancate. Un ammasso di teste, braccia, gambe. Il proprietario ha venduto ogni superficie disponibile. Accendono il motore. Oh. Al secondo colpo d'acceleratore, il mondo tutto intorno galleggia dolcemente. Si muove. Barcolliamo. Bracci e mani si aggrappano le schiene accanto. Una massa di colpi deboli. Ancora a se starsi, basta spingere un po' coi fianchi, un po' coi piedi, tanto per guadagnare qualche millimetro. Il camion gira a sinistra sulla strada asfaltata, al rondò va a destra. Passiamo oltre i capannoni dei trafficanti di sigarette, poi la strada gira a sinistra e corre parallela alla pista dell'aeroporto. Finita la pista, finisce la strada. Finisce Agadez. Finisce il Sahel. Finisce l'Africa nera. Finisce il mondo. Davanti al muso del camion, una spianata di terra e sassi senza orizzonte. Gomma che si abbattono sulle schiene madre. poliziotti salgono per in alto, in modo che anche chi sta dietro possa vedere cosa stringono in pugno. E poi giù, con più forza, finché nel caldo si senta il tonfo, seguito dai lamenti. Resistono meno di un minuto. Alla fine consegnano 10.000 franchi a testa, poco più di 15 euro. E dopo un'ora di botte, perquisizione, si risale sul carro. Ma in 20, quei 20 restano a terra. Solo uno viene a prendere il bagaglio. Li hanno fatti scendere perché non avevano niente. Non avevano soldi, scarpe o altro da dare ai poliziotti. Ma tornano a piedi alla cadenza. Avevano pagato il viaggio. L'ultimo villaggio prima del deserto del Teneré! Si scende! Adesso i passeggeri vengono divisi in piccoli gruppi! Adesso li chiamano per nazionalità! 10 per volta! Senza le stelle continua a riflettere la luce della luna, troppo debole per vedere cosa c'è davanti. Il rumore del camion copre tutto, non si sente nient'altro a parte il proprio Il motore arranca, prima, seconda. Non si va più di 5-10 km all'ora. In mezzo al cassone. Scoppiano lite. Un ragazzo sta minacciando su decine di posti. Punta però pericolosamente un coltello agli occhi degli altri. Una massa di corpi si allontana scomposta per evitare la lama. Lui si guadagna più posto per sedersi e dormire. Il 12% muore durante la traversata. Qualcuno cade in mare, qualcun altro viene buttato in mare. Poi ci sono quelli che muoiono di fame, di sete quando perdono la rotta. E poi ci sono quelli che calano a picco con tutta la barca. Il 12% significa che dei 182 passeggeri di questo camion, 22 moriranno. E se di questo si salveranno tutti, ne moriranno 44 del prossimo, o 66 di quello che verrà dopo. L'acqua rimbalza nei bidoni appesi alle fiancate. Le 200 taniche ricoperte di cartone e canapa suonano il ritmo di una lenta marcia. E non è un suono rassicurante. Vuol dire che sopra un tormentone da discoteca, altri fanno il coro. Tacchelemanta, il buon umore del mattino, il primo sole sulla faccia, la voglia di vivere. Un pozzo, sul cartello c'è scritto il nome. Speranza 400, su 400 chilometri da Cadiz. Le rotte nel deserto vengono tracciate in base alla distribuzione delle fonti d'acqua. E questo è un rifornimento fondamentale. Le nostre scorte sono quasi finite. L'autista tira dritto. Ehi, autista! Padrone della nostra vita, del nostro viaggio, della nostra sete, ma ha deciso che non si ferma! E tutti protestano naturalmente! Che il pozzo è profondo 50 metri! Ci vuole troppo tempo per tirare sull'acqua! 50 metri, sì! Per 182 passeggeri, più due autisti, più il meccanico, più lui, fanno 9.300 metri da moltiplicare per due. Perché ogni volta che la corda scende, deve anche risalire. Se ci fermiamo, il secchio deve fare su e giù per 18 km e 600 metri. I discorsi, i ragionamenti continuano per quasi un'ora. Tanto basta per allontanare il camion una decina di chilometri da Speranza 400. E a questo punto Ogni protesta è inutile. Questi sono andati e tornati col pezzo di ricambio. C'erano 29 persone più gli autisti. Se non li trovano entro domani, questi rischiano di morire. Perché nessuno può andare a cercare, scusi. Il carburante basta soltanto per il viaggio. Reclamare qua 30 morti, 40 morti nel deserto. Anche in Libia succede la cosa. A volte gli autisti scaricano i camion fuori strada a 80-100 km dalle orsi di Agatrun, da Monzur. Si è pagato per quella famiglia. Ma una notte, all'improvviso, gli autisti ti dicono che non si possono avvicinare, altrimenti i soldati li arresterebbero. Di notte, nel deserto, con l'aria limpida, con la luce di una casa, di un fuoco, si vedono tranquillamente a 100 km di distanza. E loro ti dicono: ecco, siete arrivati, seguite le luci. Allora questi scendono e si mettono a camminare. Non portano la scorta dell'acqua, sarebbe troppo. Ma quando scendi dal carro, e sei allo stesso livello, che lo sai, le luci non si vedono più. Ma comunque questi credono di seguire la giusta direzione. E va. Dice che si perde. Dice che una notte di cammino non basta. E quando sorge il sole è impossibile vedere la luce. Anche se sei nella giusta direzione. Mi dice che non ce la fanno più. Magari girano per giorni e giorni. Arrivano dalla Nigeria col viaggio pagato e l'impegno di restituire il denaro con il lavoro. Arrivati a Dirkù, scoprono qual era il lavoro. Qui una puttana costa 500 franchi, meno di un euro. Sono schiave che, se arriveranno in Europa, dovranno continuare a prostituirsi per restituire altro denaro, denaro, denaro. I disperati come me prigionieri dell'Oasi ce ne possono essere 10.000, forse 15.000. Signore, scusate, parlate inglese! Mi mancano 3.000 franchi per arrivare in Libia, altrimenti i poliziotti non mi fanno partire. Come ti chiami? Cosa è successo? Mi chiamo Elvis. Ho pagato il viaggio, ma non sapevo di dover pagare anche la polizia, altrimenti non mi fanno partire. Guarda, te ne do 10.000, ma tu non... Ma se non mi lasci finire la frase... Corre verso il camion, gridando che la facciamo salire. Guarda come tiri i soldi, mettili giù! Il poliziotto t'ha presi. Sono soldi suoi! Elvis lo guarda, protesta, spariscono dietro il muro di recinzione. Riappaiono. Elvis indietreggia, fissa il poliziotto. Sono soldi suoi! Il poliziotto mette le mani sui fianchi, forse prende la pistola. La pistola! No. Sfila il cinturone. Il primo colpo frusta Elvis sulla testa, il secondo sulla faccia, il terzo sul dorso delle mani che cercano di proteggere la faccia, dopo il quarto, il quinto, il sesto, Elvis barcolla, cade. Ma sanguina... Sanguina dalla faccia, dalle mani. Il poliziotto gli sta sopra, i colleghi ridono. Gli altri passeggeri li guardano in silenzio. Elvis si alza, corre alla cieca, ma così va a finire nel filo spinato. Il poliziotto non si ferma! Sparisce dietro il muro di recinzione. Erano soldi suoi. Cercano di colpirlo con un bastone. Il buio scende in fretta. Solo una volta ho desiderato di andare via da un posto come stasera. Avevo 4 anni. E per una broncopolmonite sono rimasto un mese. Irkù è un marchio a fuoco nella vita di chi ci passa. Lungo i 2040 chilometri tra la capitale del Niger e il confine libico, i posti di controllo sono 12. Questo significa che, tra Niamey e Madama, ogni immigrato viene rapinato almeno 12 volte. Guadagno pulito, senza costi di produzione, se non lo sforzo fisico di bussare, bastonare e torturare gli immigrati durante le perquisizioni. preparati alla diretta? Sì, sì, lo ascoltiamo. No, no, niente video, niente, lo ascoltiamo e basta. Ok, dopo aperitivo. Solito quello, d'accordo. Va bene, va bene, va bene. E senti, allora, ma chi viene stasera? Oh, porca pure. Aspetta un attimo. Ehi! Allora! Qui bisogna dare una pulita, naturalmente, l'acqua, la pianta, spolverare, magari un... uno straccio, qualcosa, la scopa. E che devo fare? Tutto io, eh? Devo fare tutto io? Faccio tutto io. No, se volete faccio tutto io, d'accordo? Ma passami la scopa, faccio io. Sì. Sì, sì. Va bene, senti, io... Aspetta, mi infilo sto coso che non è infilato bene. Sì, senti, mi metterei qua, eh? Così guardi, dai anche un'occhiata alle luci e siamo a posto. Va bene? Ma quando vuoi. Ok. Grazie. C'è che dentro sono un sotto di un soft. Mi chiamo Abby, ho 15 anni, 15 anni e sono solo. Sono partito dalla Somalia a 11 anni per andare a lavorare in Etiopia. Sono in Etiopia. Quando ho deciso di andare in Europa ho messo da parte i soldi per il viaggio dall'Etiopia al Sudan e dal Sudan alla Libia. Ho attraversato il deserto con un fuoristrada. Si viaggiava dalle 6 di mattina alle 6 di sera. In Libia sono stato 3 mesi. Appena arrivati ci hanno subito arrestati, e così 2 mesi li ho passati nel carcere di Tripoli. In carcere mi torturavano con la corrente elettrica perché volevano che mi facessi mandare i soldi da mia madre. Sono scappato dalla macchina della polizia mentre ci portavano da un carcere all'altro. Non avevo più soldi e così ho lavorato in una macelleria e quando ho avuto 300 dollari ho pagato i libici che organizzavano tutto. La notte che sono partito ci hanno portato sulla spiaggia, mi hanno rinchiuso nel bagagliaio e ci hanno detto che davano bel tempo per 24 ore. Siamo partiti il 2 novembre 2013, alle 3 di notte, eravamo 114 su un gommone di 14 metri. Dopo 20 ore è iniziato a piovere e il mare era risuscitato. Tra noi c'erano quelli che volevano tornare subito indietro perché avevano paura di annegare, altri invece volevano continuare perché dicevano che erano stati in carcere, quindi è che era peggio della morte. Il viaggio è durato 5 giorni, non abbiamo mai dormito, l'acqua salata bruciava nelle piaghe della scaglia che veniva venuta in carcere e dovevamo fare i turni per buttarla fuori perché il gommone imbarcava acqua. Il quinto giorno abbiamo incontrato una nave della Marina Militare Italiana, hanno calato le scialuppe e ci hanno fatto salire a bordo. Tra noi c'erano alcuni che non volevano salire perché pensavano che fossimo dei soldati libici. Poi ci hanno dato delle giacche e da bere e ci hanno portati in Europa. Fino fino al 1998 nell'Europa libera nessuno poteva essere imprigionato senza un processo davanti a un giudice, neanche uno straniero. Ma dal 1998 la nuova Europa sta per eliminare le frontiere interne. Per entrare nel club, l'Unione chiede ai suoi stati membri una garanzia. Allora, tutti gli immigrati clandestini devono essere da loro espulsi, ma senza tenere almeno una persona di identificare l'identificazione è incerta. E se l'identificazione è incerta, nessuno Stato accetterebbe il rimpatrio. I primi tre centri di detenzione in Italia vengono inaugurati il 1999, il primo a Milano. Una bella gabbia, larga, larga, 110 passi, lunga 90, con due belle file di containers colorati per dormire. La seconda a Roma, la terza a Trapani, quella di Trapani va a fuoco dopo qualche tempo. Il governo, i ministri, le autorità ripetono che gli stranieri trattenuti nei centri restano cittadini liberi, sono ospiti, non detenuti, perché non avere i documenti in regola non è reato, è solo una violazione. Quella notte i liberi cittadini, ospiti a Trapani, trovano i cancelli delle gabbie chiusi a chiave e muoiono in sei, bruciati, asfissiati. Li chiamano centri di permanenza temporanea per distinguerli dalle carceri e farlo bene. I detenuti rinchiusi nelle carceri hanno più garanzie di difesa. Poi altri 37 e poi Milano. Milano, vieni qua! Dopo l'interrogatorio devi lasciare le impronte, così sei schedato. Decine di emigrati, seduti sull'asfalto, in fila da 10. Oggi siamo a quota 447. Vai, muoversi, muoversi! I carabinieri gridano, ridono. C'è del riguardo sul pavimento. Seduti! Sit down, my friend. Sit down. Ci accovacciamo sulle caviglie, ma non va bene. Per evitare le botte dobbiamo rassegnarci, bagnarci e sedere. Dopo l'appello c'è la coda per il pranzo. Si mangia per terra. Nel pomeriggio dobbiamo cercarti un posto per ripararsi dal sole. I letti sono tutti occupati, dormono anche sui tavoli della mensa. Mi accascio sfinito sotto il sole, la testa avvolta nell'asciugamano che mi hanno dato come coperta, parasole, separe al cesso, turbante, fazzoletto, stuoio. Il cuscino, il sacchetto dell'immondizia, ho dentro ancora i vestiti bagnati. Ripasso la mia lunghissima giornata. Ogni momento, ogni particolare, ogni voce, conoscono già la lingua della gabbia di Lampedusa. Arabo, inglese, italiano, tutto mescolato. Lascia la sciara per distinguersi, per dividersi in file da 10. E poi my friend, il modo in cui i carabinieri e polizia chiamano tutti. E poi cornuti, plurale di my friend. Fissa fissa per sbrigare gli ordini velocemente. Mangeria con culo per la distribuzione dei pasti. I gabinetti sono un'esperienza indimenticabile. 13 docce con le scariche intasate, 48 lavandini, 13 turche, 3 stracconi. Dai rubinetti esce acqua salata. Non ci sono porte, non c'è elettricità, non c'è privacy. Si fa tutto davanti a tutti, non c'è carta igienica. Ci si pulisce con le mani. E dentro ci devi andare di notte, perché di giorno il livello del liquame è più alto dello spessore delle ciabatte, ci devi affondare i piedi. Secondo l'appello di stamattina nella gabbia c'erano 600 uomini più le donne della sezione femminile. Adesso ci sono altri 180 nuovi arrivi, iniziano subito con la perquisizione. Spogliati, spogliati, spogliati, spogliati, spogliati, spogliati! Ci sono decine di uomini nudi pronti per la perquisizione. Vengono tutti presi a schiaffi. Mirà, vieni qua! La fila di uomini stravolti si avvia. Avanti, marci! Chiedono di mangiare. Un dottore dice in francese che tornerà con delle brioche. Mirà, vieni qua! Non torna. Fanno a sdraiarsi su marciapiede. Mirà, vieni qua! Sono finiti anche i materassini. Mirà, vieni qua! No! No! Vado a sdraiarmi sulla trave. Non riesco a dormire. Guardo i corpi sul pavimento. E se anch'io considerassi tutto questo normale? Un hotel a 5 stelle. Un motivo di orgoglio nazionale. Benvenuti. Benvenuti. Benvenuti. Lo spettacolo Bilal, nessun viaggiatore è straniero, tratto dal libro Bilal, viaggiare, lavorare, morire da clandestini di Fabrizio Gatti, per la regia di Annalisa Bianco con Leonardo Capuano. Con Katia Caselli, ideatrice del progetto Live Streaming Theater, 3 residenze e 3 spettacoli dall'11 gennaio al 7 febbraio 2021. Katia, ben trovata. Ciao, salve a tutti. Ce ne parli? Questo è un progetto nato dopo il primo lockdown, quando appunto in qualche modo abbiamo in realtà riaperto il teatro, proprio perché ci siamo molto interrogati su quello che è successo da marzo in poi e ho sentito il bisogno di individuare una possibilità per gli artisti di sperimentare nuovi linguaggi. Per questo motivo abbiamo lavorato su una call uscita quest'estate, proprio alla ricerca di progetti artistici che fossero dei debutti o dei riallestimenti pensati però per lo schermo. Questo è anche possibile perché lo spazio Rossellini, che è uno spazio della Regione Lazio, dove ACCL, il circuito multidisciplinare della Regione, organizza le attività, nasce proprio con una vocazione multidisciplinare e con la possibilità di realizzare dei progetti innovativi proprio anche grazie alla dotazione tecnica presente. E quindi abbiamo deciso di trasformarlo in una sorta di set dove le compagnie hanno la possibilità di sperimentare insieme alla regia teatrale una regia video, quindi rimmaginare un riallestimento del proprio spettacolo pensato per lo streaming. È stato accolto con molto entusiasmo il progetto, sono arrivate 74 proposte e la commissione che ha selezionato le proposte era anche una commissione ibrida, cioè con degli esponenti che provenivano dal mondo del cinema e con gli esponenti che provenivano dal mondo teatrale. E quindi per mettere già al centro della selezione questa nuova modalità di spettacolo dal vivo. È chiaro che questa risposta è al di là delle problematiche che esistono sulla presenza o meno del pubblico, perché sono completamente d'accordo sul fatto che si tratta di una dinamica completamente diversa, ma in qualche modo questa rispondeva ad un'esigenza di dare delle possibilità lavorative anche a delle compagnie e metterle in condizione di poter sperimentare, cogliendone anche l'aspetto positivo ma anche negativo, questo non lo sappiamo. Però credo che sia un po' il nostro compito quello di dare la possibilità di trovare dei nuovi linguaggi. Di queste tre compagnie cosa vi ha convinto maggiormente? Sono tre progetti molto diversi tra di loro. Il primo spettacolo di giovanissimi, di cui Federico Brugnone ne cura la regia, porta in scena una vera e propria live streaming. Il titolo appunto è l'ultima live di Jumbo Bimbo 87 e quindi riproduce il meccanismo delle live e di come il pubblico interagisce con chi fa delle dirette streaming. Il secondo spettacolo invece della compagnia Tuckers Teatro porta in scena un mondo fiabesco, si rivolge sia agli adulti che ai bambini, infatti la replica è pomeridiana proprio per questo motivo, ed è completamente diverso sulla modalità che ha di far partecipare lo spettatore con lo sguardo, proprio perché il tipo di riprese che andranno a sviluppare supereranno la soglia dello sguardo frontale per entrare grazie all'occhio della telecamera all'interno della scena. Il terzo progetto, sempre di una compagnia molto giovane che nasce da un gruppo di ex allievi dell'Accademia Silvio D'Amico, di cui la regia è curata da Chiara Arrigoni, è una commedia noir e loro hanno ripensato lo spettacolo coinvolgendo proprio una produzione cinematografica e quindi l'allestimento sarà con uno sguardo completamente innovativo. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? La trasmissione è sul ACCL Magazine nella sezione live, lo streaming è gratuito, quindi si può accedere esattamente nel giorno e nell'orario previsto per ogni spettacolo, poiché non è disponibile lo spettacolo on demand, proprio perché in qualche modo volevamo conservare un qui e un'ora della scena e proprio perché si svolge in diretta. E quindi per il primo spettacolo, quello di domenica 17 gennaio, andrà in onda alle 21.30, quello del 24 gennaio andrà in onda alle ore 18, quello del 7 febbraio sempre alle 21.30. Live Streaming Theater, tre residenze e tre spettacoli dall'11 gennaio al 7 febbraio 2021, un progetto nell'ambito dello spazio Rossellini. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Katia Caselli. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, viva il lupo sempre. con Christian Tasso, autore del libro Nessuno Escluso, in uscita giovedì 14 gennaio 2021. Ben trovato. Ciao, buongiorno. Ci racconti di questo lavoro? Questo lavoro ha due genesi. La prima nel 2009 in Sahara Occidentale, quando un'organizzazione umanitaria mi mandò a lavorare sui diritti delle persone con disabilità. Da quel lavoro, che fu l'inizio della mia carriera, quando sono tornato in Italia ho iniziato a fare delle ricerche, perché ero curioso di sapere come la disabilità viene percepita nei diversi contesti sociali. E trovando poche informazioni ho deciso di scrivere un progetto. E così arriviamo alla seconda genesi, perché mentre cercavo risorse e sostegno e consigli per realizzare questo nuovo progetto, ho incontrato un uomo che si chiama Nicola Barchett, che è il padre di una bambina, una ragazza ormai con sindrome di Down, al quale, mostrando le fotografie realizzate in Sahara Occidentale, mi disse una frase che ha cambiato tutto quanto, cioè: se hai intenzione di realizzare questo nuovo progetto con lo stesso stile, non lo fare perché farai più danni che altro. Questa cosa scaturì in me la voglia di comprendere perché stessi dicendo questa cosa, e quindi continuai a studiare, scoprendo che quando si tratta di disabilità e di diversità in genere, le narrazioni che ci sono sempre di due tipi. La prima è quella pietistica, quindi le persone con disabilità in necessità di aiuto, e l'altra è quella dei supereroi, modello paralimpiadi, persone che sormontano qualcosa che la società non si aspetta da loro. Ecco, quando parliamo però di disabilità parliamo di 1 miliardo di persone nel mondo, è il 15% della popolazione mondiale, e non tutti sono supereroi, non tutti sono vittime, ma tutti soffrono degli stereotipi generati da questo tipo di comunicazione. E quindi ho iniziato a cercare di sviluppare un metodo che potesse utilizzare la fotografia per offrire un nuovo punto di vista. Mi sono avvicinato alle organizzazioni internazionali per avere un'influenza sulla mia produzione artistica, ed ho sviluppato un metodo di racconto che è legato a rispettare la dignità di chi incontro, che ho incontrato durante i miei viaggi, e quindi ho iniziato a chiedere a tutte le persone che fotografavo di scegliere come essere fotografate, di scegliere in che maniera volevano la loro storia essere rappresentata. Ed ecco che quindi, quando si vedono i miei ritratti, si parla di persone, ci sono persone con le loro caratteristiche, e la disabilità è una delle caratteristiche della persona, ma mai la più importante. Il messaggio centrale di questo lavoro è che la diversità è la più grande risorsa che l'essere umano ha, che l'umanità ha, e quindi volevo stimolare questa riflessione, favorendo l'idea che una società inclusiva, che è in grado di valorizzare le diversità di ognuno, è migliore per tutti. I ritratti sono in posa o anche in momenti di vita quotidiana? Sono realizzati in scenari di vita quotidiana, però sono in posa, nel senso che per me era interessante che le persone ritratte guardassero in camera, perché ho immaginato questo lavoro come delle finestre che permettessero a chi guarda queste fotografie di arrivare dall'altra parte del mondo, in uno dei 15 paesi che ho visitato, e di guardare in pace, di potersi concentrare sulla parte più profonda dei soggetti. Quante persone hai coinvolto in questo progetto? Ho incontrato migliaia di persone, non ho un numero preciso, ma molte, perché comunque in ogni paese ho viaggiato per almeno un mese e gli incontri ne ho fatti veramente tanti. E quante sono finite tra le tue pagine? Mi sembra 80 fotografie. Che impressioni ne hai ricavato da questo viaggio e questa esperienza? Per me questo racconto, questi ritratti, queste fotografie raccontano in che maniera è cambiato il mio modo di vedere. Cioè, il centro di tutto è anche offrire come gli stereotipi che io stesso avevo nei miei occhi e nella mia maniera di guardare alla diversità siano cambiati nel tempo. Quindi credo che il centro di tutto sia proprio questo qui, cioè raccontare come il mio sguardo sia cambiato. L'impressione che hai avuto è che, a partire dai paesi in cui sei stato, si vada verso una maggiore inclusione o viceversa? La strada verso l'inclusione è tracciata, questo anche grazie alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, scritta nel 2006 e ratificata anche dall'Italia. Credo che grazie appunto all'implementazione di leggi che permettono l'inclusione, ma soprattutto al cambio della comunicazione, quindi di come vengono narrate queste storie, si vada verso un'inclusione. La strada è lunga naturalmente, però auspico che anno dopo anno, in tutti i contesti sociali, l'inclusione delle persone con disabilità andrà sempre meglio. Il libro esce giovedì 14 gennaio, lo accompagnerai con delle presentazioni? In questo momento no, a causa delle restrizioni dei decreti, a causa del Covid, insomma, non riusciamo ad organizzare delle presentazioni. Ci saranno una serie di servizi televisivi per promuovere il libro. Ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Possono trovare sul mio sito che è cristiantasso.com, sulla mia pagina Instagram che è cristiantasso photography e poi c'è un sito del progetto che è 15%photoproject.com. Nessuno escluso. Un saluto e un ringraziamento all'autore Cristian Tasso. Il libro è in uscita giovedì 14 gennaio 2021. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie mille. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.